Davide, sono bravi! State zi! Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzolette bianche che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Viendo piangere in tutta la mia vita, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi fermar fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole, che può cambiare l'amore, la malattia per te. Grazie mille.